Perché Gesù Cristo è venuto sulla terra? Noi lo accettiamo come un fatto scontato, ma poiché Egli è Dio, non aveva certamente bisogno di venire in mezzo agli uomini. Una divinità che lascia la sua gloria per vivere con gli uomini come un qualsiasi mortale e addirittura morire in croce. Non è una cosa normale. Nessuna religione ha o ha avuto una divinità simile. Benché sembra scontata la risposta all'interrogativo perché Gesù Cristo è venuto sulla terra, in realtà non tutti hanno le stesse risposte. Per molti Gesù è venuto per insegnarci una morale a compiere del bene o per mettere la pace sulla terra. Possiamo dare molte spiegazioni, buone o cattive, moralistiche o meno, ma sono sempre opinioni personali. Perciò, per non sbagliarci, prendiamo in esame ciò che Gesù disse di se stesso e quale ragione addusse per la sua venuta su questa terra, dal momento che non vi è alcun conforto o sostegno nel credere qualcosa di non corrispondente alla verità. Se troviamo incoraggiamento in un'idea su Cristo che non corrisponde al vero, quando avremo bisogno di una risposta seria, non riusciremo a trovare nessun senso in quello che crediamo. Le nostre convinzioni sbagliate non ci sono di nessun aiuto per quanto ostinatamente possiamo sostenerle. E l'atteggiamento più saggio è leggere i Vangeli per trovare una o più risposte al nostro interrogativo. Nell'esaminare le ragioni per le quali Gesù Cristo disse di essere venuto sulla terra, sorprendentemente impariamo che Gesù è venuto sulla terra per uno: adempiere ogni parola detta da Lui, 2 per indurre le persone al ravvedimento, 3 per fare un giudizio sugli uomini, 6 per salvare ciò che era perduto, 7 per servire, 8 per essere re, 9 per queste 12 ragioni presentate da Gesù per spiegare il motivo per il quale è nato, vissuto e morto come ogni altro uomo, devono costituire il fondamento di ogni altra riflessione in merito alla sua persona. Ancora oggi si parla molto di Gesù, si fanno dibattiti sulla sua persona e sulla sua opera, ma sembra che le persone siano sorde ai motivi che lo hanno spinto a venire sulla terra. Perciò, per non seguire l'esempio sbagliato, prendiamo in esame le affermazioni di Gesù. 1. Gesù è venuto per adempiere ogni parola detta da Lui, Matteo 5,17. Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Poiché Gesù sapeva che con la sua venuta avrebbe rivoluzionato tutto il sistema religioso, era inevitabile che dovesse specificare che con la sua venuta non avrebbe in definitiva cambiato nulla di ciò che era stato scritto da parte dell'Eterno Dio. Che Gesù avesse rivoluzionato tutto il sistema religioso lo dimostra il fatto che dopo migliaia di anni di sacrifici cruenti di animali offerti alla divinità, oggi non se ne offrono più per ordine di Dio. Nonostante questo, però, chi ha posto fede nel Dio Trino tramite Cristo offre come sacrificio la propria vita come espressione del risultato dell'amore che nutre per Gesù Cristo. In definitiva, Gesù è venuto per abolire solo ciò che era formale e cerimoniale per insegnare al credente il vero scopo della legge. Infatti Gesù spiega che l'ordine di non uccidere non si limitava solo nel togliere la vita a qualcuno, ma era riferito anche al fatto di non adirarsi senza alcun motivo e di condannarlo per la sua fede. Così pure era del comandamento in merito all'adulterio. I farisei e i contemporanei di Gesù ritenevano l'adulterio solo un atto materiale, ma Gesù specifica che la trasgressione al settimo comandamento consisteva anche nel desiderare di possedere il corpo di chi non fosse il proprio partner. In merito poi al rapporto che si deve avere con i malvagi, Gesù ha rivoluzionato ogni ragionamento umano. Il malvagio, per Gesù, deve essere amato e non fermato in caso che il giusto fosse messa alla prova la sua fede. Infine, ciò che Gesù ha detto in merito alla sua venuta ha una ragione molto più profonda. Poiché la legge è stata dallo stesso Figlio di Dio, è evidente che Gesù non poteva abolire ciò che aveva emanato. Quando Gesù disse che il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, non si riferiva solo a ciò che stava dicendo ai discepoli, ma anche a tutto ciò che era stato scritto prima di lui, e cioè all'Antico Testamento. La venuta di Gesù dunque ha come primo scopo quello di confermare e completare ciò che egli aveva comandato tramite la legge e i profeti. 2. Gesù è venuto perché le persone cambino opinione su se stesse. Marco 2:16-17. Allora gli scribi e i farisei, vedendolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dissero ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve egli in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?» E Gesù, udito ciò, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento». Separare il male dal bene è un istinto naturale e spesso doveroso. Se in una cesta di mele ce n'è una marcia, occorre toglierla prima che faccia marcire tutte le altre. Nel campo morale non è da meno. Il detto «chi va con lo zoppo impara a zoppicare» significa che, frequentando chi ha brutte abitudini, si impara a compiere delle malefatte. Proprio per questo motivo i farisei al tempo di Gesù condannavano il suo comportamento perché stava con delle persone di dubbia onestà. Gesù prende l'occasione per dire che egli non era venuto per chi si ritiene giusto, ma per coloro che avevano cattive abitudini, affinché questi si esaminassero e cambiassero comportamento, in definitiva, affinché si ravvedessero. Dicendo questo, Gesù non intendeva dire che alcuni erano perfetti e non avevano bisogno del ravvedimento, ma metteva in evidenza che la sua presenza aveva lo scopo di aiutare coloro che erano schiavi del peccato o di abitudini malsane. Per i farisei, che si ritenevano giusti, la venuta di Gesù non aveva dunque efficacia. La venuta di Gesù per i religiosi contemporanei non aveva importanza. Anche oggi molte persone la pensano così. Non si ritengono certamente perfette, perché occorre essere squilibrati per sostenere la perfezione, ma neppure si ritengono tanto malvagie da avere bisogno di Gesù quale Salvatore. Che Gesù sia morto in croce, oppure no, per loro non fa differenza, perché cercano di ottenere il perdono dei peccati tramite buone opere. Se ritenessero che Gesù abbia perdonati tutti i loro peccati, queste persone non cercherebbero una giustizia mediante l'osservanza della legge, ma poiché cercano di piacere a Dio, con le loro opere dimostrano che Gesù non è venuto per loro, dimostrano che non sono sufficientemente perduti da avere bisogno di un Salvatore. Eppure, Gesù è venuto perché i peccatori abbiano un ripensamento, perché si riconoscano perduti e bisognosi di Cristo. Se così non è Gesù, allora è venuto invano. 3. Gesù è venuto per predicare il Vangelo. Marco 1:36-38. E Simone e quelli che erano con lui lo cercarono. E, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano!» Ed egli disse loro: «Andiamo nei villaggi vicini, affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto». Ed egli andò, predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea, e scacciando demoni. Gesù disse di essere venuto per predicare l'Evangelo, e lo disse in un momento particolare. Avendo visto i miracoli che compiva Gesù, le folle lo cercavano, ma Gesù non si lasciava impressionare né condizionare dal comportamento delle folle. Poteva essere contento di essere cercato, poteva essere soddisfatto che le persone comunque udivano l'Evangelo, poteva soddisfare il loro desiderio di vederlo e udirlo, ma Gesù preferì andare altrove e predicare l'Evangelo. Gesù era schivo di successi e di applausi. Quanta differenza con coloro che cercano onori, applausi e successo! Che contrasto! Tra la vita riservata di Gesù e la fama che godono certi predicatori! Che contrasto tra Gesù e il Papa! In una delle 95 tesi che Lutero affisse il 31 ottobre 1517 alla porta della chiesa del castello di Wittenberg, egli enunciò: «Il Papa non può né vuole rimettere altre pene fuori di quelle che ha imposto, o per volontà sua o delle leggi ecclesiastiche». In definitiva, Lutero, in armonia con la scrittura, sosteneva che il Papa non può cambiare in nulla la condizione di un uomo peccatore davanti a Dio. Quando ci si riferisce al Vangelo, dobbiamo sempre ricordare che esso è l'annuncio del perdono dei peccati e quindi della completa giustificazione davanti a Dio che si accolgono mediante la confessione del proprio peccato e un atto di fede nell'opera di Cristo. Questo, in definitiva, è il Vangelo che Gesù predicava. La grandezza del Papa, per quanto sia ancora grandemente accresciuta col dogma del primato e dell'infallibilità, altezza dinanzi alla quale milioni e milioni di persone si inginocchiano riverenti e fiduciosi nella certezza che il Papa, vescovi e sacerdoti possano perdonare i peccati, è una grandezza apparente. Gesù Cristo è venuto per portare la certezza del perdono di Dio mediante un atto di fede nella sua opera. Questo pochi lo hanno capito. E per questo pochi, secondo quello che disse Gesù, saranno salvati. 4. Gesù è venuto per mettere divisione Matteo 10.3, 4.37. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. La pace. Non vi è parola più usata e desiderio più grande. E l'Evangelo è il grande annuncio di pace. Gli apostoli sono andati ovunque ad annunziare la pace per mezzo di Gesù Cristo. Atti 10.36. Questa pace è annunziata ai credenti. Romani 5.1. E per questo sono chiamati a vivere in pace fra loro. 1 Tessalonicesi 5.1-3. E a vivere, per quanto dipende da loro, in pace con tutti gli uomini. Romani 12.1-8. Eppure il messaggio di pace contiene anche un messaggio di conflitto, perché la morte di Gesù in croce non è stata casuale, ma dovuta al fatto che tutti gli uomini sono perduti. La croce rende inquieto chi si sente tranquillo, e dà tranquillità a chi si sente inquieto. La croce parla del giudizio di Dio e nello stesso tempo parla di misericordia. Il giudizio di Dio non è senza misericordia, e la misericordia non è senza il giudizio di Dio. La croce procura la pace, ma guai a chi si sente in pace, lontano dalla croce. Prima viene la croce e poi la pace. Se si mette prima la pace, la croce non fa il suo effetto. Purtroppo l'uomo preferisce sentire parlare di pace piuttosto che della croce. Cerca la pace ecumenica, la pace a buon mercato nella confessione auricolare. La pace di oggi è composta di complimenti reciproci e altrettanti calcolati silenzi, in modo che nessuno si senta giudicato e messo in questione. Per timore di offendere qualcuno, si dice solo quello che gli altri desiderano sentire, e si tace su quello che gli altri non vogliono udire. Ma chi predica il Vangelo dei conflitti non ha molto successo, e per questo molti cercano di evitarlo. Eppure Gesù non mai cercato di essere applaudito, né mai ha cercato di essere desiderato dal lato umano, perché egli è venuto per dividere. Coloro che predicano la pace senza la separazione da Cristo ingannano se stessi e non sono i veri autori della vera pace. 5. Gesù è venuto per fare un giudizio. Giovanni 9.39-41. Gesù disse: «Lo sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane». Il resoconto che Gesù fornisce riguardo al progetto per il quale era venuto nel mondo è di predicare una dottrina e una legge che avrebbero messo alla prova gli uomini, smascherandoli e distinguendoli efficacemente. Con le sue parole Gesù differenzia gli uomini, svela i pensieri dei loro cuori, mettendo a nudo i veri caratteri delle persone, se erano ben disposti o mal disposti verso di lui. E questo soprattutto nell'ambito religioso. In effetti, i farisei, cioè le persone istruite che conoscevano la volontà di Dio e sapevano distinguere ciò che è meglio, Romani 2.18, approvavano la valutazione di Gesù, ma solo per gli altri e non per se stessi. Infatti, essi risposero a Gesù: «Siamo ciechi anche noi, cioè, è vero che il popolino è cieco, ma noi che siamo insegnanti e guide di ciechi, non comprendiamo forse quello che stiamo dicendo». I farisei si resero conto che le parole di Gesù «Io sono venuto perché quelli che vedono diventino ciechi» erano rivolte verso di loro e posero appunto la domanda «Siamo ciechi anche noi?». Quel «anche» la dice lunga. La risposta di Gesù non si fece attendere. Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite «Noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane». Applicando nella quotidianità della nostra vita religiosa questo dibattito tra Gesù e i farisei, si rimane sconcertati. Gesù sta dicendo che i capi religiosi, che nel nostro contesto culturale cattolico sono i sacerdoti, i vescovi e il Papa, sono ciechi alla guida di altri ciechi. Gesù è venuto per far comprendere il regno di Dio a coloro che sanno di non vedere, mentre coloro che suppongo di conoscere perché hanno studiato sono dei ciechi. Gesù non sta facendo il culto all'ignoranza, non sostiene che chi non sa è più intelligente, ma egli ha messo in evidenza la necessità di riconoscersi bisognosi di rivelazione da parte di Dio e a far questo un religioso istruito è il meno propenso. Così come il cieco più grande è colui che non vuole vedere, la cecità più pericolosa è quella di chi si illude di vedere. Come sta scritto, hai visto un uomo precipitoso nel suo parlare? Ci è più speranza per uno stolto che per lui, Proverbi 29.20. 6. Gesù è venuto per salvare ciò che era perduto, Matteo 18.1011. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro vedono continuamente nei cieli la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il Figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Anche la persona più disinteressata alla religione sa che Gesù è venuto per salvare tutti gli uomini. Lo si dice ad ogni piè sospinto, lo si predica nei luoghi di culto, nelle cerimonie religiose, nei dibattiti interreligiosi. Anche se sono passati 2000 anni, il messaggio dei primi cristiani non è cambiato. L'uomo nasce condannato e perduto. Per essere salvati dalla perdizione eterna è indispensabile confessare di avere trasgredito la legge di Dio, riconoscersi mancanti e colpevoli davanti a Lui e accettare con un atto di fede che la morte di Gesù sulla croce rende degno della vita eterna chiunque lo compia. La salvezza è dunque il risultato di un atto di consapevolezza del proprio stato di perdizione e un atto di fiducia in ciò che Gesù Cristo compì mediante la sua morte. Vi è però un interrogativo che potrebbe assillare chi ascolta il messaggio del Vangelo: se tutti gli uomini nascono perduti e la salvezza è il risultato di una scelta consapevole di porre fede nell'opera di Cristo, che ne è di coloro che non hanno la possibilità di fare una scelta come i bambini, o le persone che non hanno la capacità di intendere e volere. Questo interrogativo sarebbe rimasto senza risposta se Gesù non avesse detto di essere venuto per salvare ciò che era perduto. In definitiva, Gesù disse di essere venuto non solo per salvare chi avrebbe posto fede in Lui, ma anche tutto ciò che era sotto la condanna del peccato, e tra questi ci sono i bambini e coloro che non hanno la capacità di intendere e volere. Come sarà la loro posizione nel cielo? Saranno adulti? Saranno bambini? Sono interrogativi ai quali la Scrittura, almeno per quanto ne so e per quanto ho letto meno, non dà una risposta. Ma quando si parla di Dio e dell'aldilà, l'importante non è comprendere, ma accettare. Gesù ha detto espressamente che è venuto per salvare ciò che era sotto la condanna di Dio. E questo è riferito non solo alle persone, ma anche a tutto il creato. Su questo possiamo essere sicuri perché l'Apostolo Paolo lo dice senza ombra di dubbio nella lettera ai Romani. Romani 8.19. Ora, se Gesù ristabilisce una creazione che non ha volontà né è fatta di immagine di Dio, quanto più riscatterà dal potere della perdizione dei bambini fatti a sua immagine. 7. Gesù è venuto per servire il prossimo. Matteo 20.25-28. E Gesù, chiamato a sé i discepoli, disse: «Voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse, ma tra di voi non sarà così. Anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro schiavo, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Il verbo servire sembra scomparso dal nostro linguaggio. Da un certo punto di vista è una cosa buona, perché il verbo servire deriva dalla parola servo. I romani indicavano con il termine servo i nemici fatti prigionieri sul campo o nella conquista delle città, i quali generalmente erano destinati a essere poi venduti al maggior offerente come una merce qualsiasi. Nel Medioevo si è dato questo nome alle persone addette alla gleba, che non potevano disporre né di se stessi né dei loro beni. Con la venuta della cultura cristiana, il servo propriamente detto è sparito, ma dal termine servo sono derivate le parole servaggio, servitore, servitù, servizio. Perciò, in un certo senso, che non ci siano più servi come merce da vendere o persone senza dignità è una cosa buona, ma il servo in quanto a colui che si adopera per gli altri è un fatto lodevole. Però, quando Gesù disse di essere venuto per servire, intendeva riferirsi alla sua totale sottomissione a Dio e alla sua totale consacrazione al servizio dell'umanità. E questa è la ragione per la quale Gesù è venuto, ed è questo lo spirito che deve caratterizzare colui che dichiara di essere un suo seguace, cioè un cristiano. Dobbiamo riconoscere che vi è una notevole differenza tra la vita di Gesù e molti di coloro che si dichiarano cristiani. Quando volevano farlo, Re Gesù è fuggito. Quando lo cercavano perché faceva dei miracoli, evitava le folle. Più di una volta, dopo aver fatto dei miracoli, invitava le persone a non dir nulla a nessuno perché non poteva più entrare pubblicamente in città e se ne stava fuori in luoghi solitari. Marco 1.4-5. Nonostante fosse il re dei re, Gesù è venuto come servo e per servire dei malvagi peccatori. Dopo 2000 anni il suo esempio sarà imitato? 8. Gesù è venuto per essere re. Giovanni 18.3-337. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo da te stesso, oppure altri te lo hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato». La domanda di Pilato rivolta a Gesù è la domanda di tutti: «Dunque tu sei re?» A molti sfugge o desiderano dimenticare che Gesù è un re. Gesù è re di un regno che non è di questo mondo. Non è un re pericoloso per il governo romano. Non è un regnante di questo mondo perché i suoi interessi non sono curati con metodi secolari. Il regno di Gesù Cristo non ha mai interferito minimamente con le prerogative dei principi né con i beni dei suoi soggetti. Non ha cercato di alterare le costituzioni nazionali, né si è mai opposto ad alcun governo, tranne a quello del peccato e Satana. Il regno di Gesù non sorge per successione, elezione o conquista, ma per una decisione divina. Il regno di Gesù Cristo è un regno interiore, stabilito nel cuore e nella coscienza umana. Pochi hanno compreso il regno di Gesù Cristo e la sua missione di re. Se la religione cattolica romana lo avesse compreso, non avrebbe usato le armi per conquistare terre che non sono sue. Se le persone avessero compreso che Gesù è re, lo farebbero regnare nella loro vita. L'Evangelo non è una bella canzone da udire, non è un buon discorso religioso, ma è l'annuncio di Gesù Cristo che vuole regnare nella coscienza e nella volontà di ogni essere umano. Tutti gli uomini per natura sono sotto il regno malefico di Satana, religiosi o no, e per questo Gesù vuole diventare il loro re per liberarli dalla schiavitù del peccato e di Satana. Chi non ha Gesù come re della sua vita non ha compreso la sua venuta. Se Gesù non regna nel cuore di una persona, invalida la sua missione di salvezza, ed è destinato ad andare nel luogo della perdizione preparato per il diavolo e i suoi angeli. 9. Gesù è venuto per rendere testimonianza della verità. Giovanni 18.37. Pilato disse a Gesù: «Dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato, e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce». Pochissime persone hanno compreso che l'importante nella vita non è avere ragione, ma conoscere e dire la verità, perché spesso ha ragione chi ha un motivo valido in più per sostenere una opinione. Ma la verità non cambia. Dobbiamo riconoscere che non vi è nessun conforto o sostegno nel credere qualcosa che non corrisponde alla verità. Se troviamo conforto e incoraggiamento in un'idea di Dio che non corrisponde al vero, quando si avrà bisogno di risolvere dei seri problemi non riusciremo a trovare nessun senso in quello che succede. Perciò la venuta di Gesù è di una importanza vitale, dato che egli è venuto per dare certezza in merito alla verità. Infatti è venuto per rivelarla e confermarla. E venuto per rivelare la verità perché essa non poteva sussistere in un codice di regole. La testimonianza di Giovanni è esplicita. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 1.17-18. Dunque, la legge ci è pervenuta tramite il profeta Mosè, ma la verità, cioè la vera applicazione della legge, è stata incarnata in Cristo Gesù, e questo perché Gesù è la verità. Inoltre, essendo la verità, Gesù ha potuto rivelare il Dio Trino e farlo conoscere a noi creature. Se Gesù non ci avesse parlato del Padre e della persona dello Spirito Santo, nessuno avrebbe mai pensato che nel Dio di Israele e dei cristiani sussistessero tre persone in una unica natura divina. Inoltre Gesù ha confermato la verità con la sua vita. Il detto «predica bene, ma razzola male» si può applicare a tutti gli uomini. Ma Gesù ha sempre vissuto ciò che ha insegnato, al punto che chiese ai suoi contemporanei: «Chi di voi mi convince di peccato? Chi vuole conoscere la verità non deve fare altro che conoscere le parole di Gesù e il suo comportamento, perché egli è venuto per rendere testimonianza della verità». Noi siamo abituati a vedere la verità a senso unico. Siamo abituati a vederla positiva, utile, necessaria per vivere in armonia con gli altri e con noi stessi. Ma non dobbiamo dimenticare che la verità mette in luce l'errore come la luce mette in evidenza il buio. Se Gesù è la verità, se è venuto per rendere testimonianza della verità, allora contemporaneamente egli mette in evidenza anche l'errore. E questo significa che quando si cerca una spiegazione alla vita, quando ci è un dibattito interreligioso, quando si tratta di tirare le somme in merito al bene o al male, Gesù Cristo è il metro, cioè la misura perfetta di ogni ragionamento e morale. Non serve a nulla dichiarare che Gesù è la verità. Se poi lo si ritiene uno dei tanti leader mondiali, uno dei tanti fondatori di religione, uno dei tanti filosofi o pensatori, se Gesù è il metro, cioè il punto di riferimento, o quella misura riconosciuta da tutto il mondo mediante la quale si convalida o si invalida ogni altra misura, non è possibile rilegarlo ad una misura qualsiasi. Così, la verità spesso è positiva, utile e necessaria per vivere in armonia con gli altri e con noi stessi, ma a volte può rendere un rapporto, una situazione, una comunione protratta da anni improvvisamente conflittuale, proprio perché è entrato in ballo la verità. Ho presente in particolar modo una coppia stimata da tutto il paese nel quale viveva che, con orgoglio, ogni domenica mattina attraversava il paese con i figli per andare a messa. Il quadro era veramente ideale. Un giorno il marito conosce l'Evangelo, vi pone fede, comprendere che Gesù è morto per i suoi peccati per renderlo giusto davanti a Dio, si rende conto che il sacrificio della messa non ha più senso e si rifiuta di accompagnare la moglie e i figli. Viene spezzata non solo l'armonia della famiglia, ma anche il bel quadro di un coppia unita e stimata da tutti. La situazione si protrae per anni fino a quando la moglie non si rende conto che il marito non è stato sedotto da una setta, non è diventato pazzo, non ha aderito ad un'altra religione e anche lei, per la rivelazione dello Spirito Santo, comprende il Vangelo, confessa i propri peccati e riceve il perdono offerto per grazia. Dove prima la verità aveva diviso ciò che era apparentemente unito, ora unisce per l'eternità due anime perdute. Gesù Cristo per quella coppia è diventato veramente la verità, quella verità che unisce ma che divide la luce dalla tenebre, i figli di Dio dai figli del diavolo. 10. Gesù è venuto per essere la luce del mondo, Giovanni 12.4-6. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Tra le tante ragioni che motivano la venuta di Gesù nel mondo, quella di essere la luce di quest'ultimo, è una condizione destinata a privilegiare l'essere umano. Non a caso nella descrizione concernente la restaurazione della terra e la creazione degli animali e dell'uomo, notiamo che per prima cosa Dio fece apparire la luce. È rilevante che la luce non sia stata creata da Cristo come invece accadde per le altre cose, ma essa fu messa da Lui in evidenza con l'ordine, sia la luce. E questo perché la luce c'era già dato che Cristo stesso era, ed è la luce del mondo. Senza luce non vi è vita. Senza luce non si può fare nulla. Quando Gesù disse di essere la luce del mondo e di essere venuto come luce del mondo, diede una certezza infinita ad una umanità che cammina nel buio più totale. Coloro che pongono fede in Cristo hanno la consolazione di non rimanere nelle tenebre e conoscono per mezzo di Gesù la gioia e la speranza anche tra le situazioni più difficili della vita. Se Gesù è la luce del mondo, se dona ai credenti la capacità di vedere le cose spirituali e la certezza della vita eterna, perché i cristiani sono accusati di orgoglio? Perché è orgoglioso affermare che si è sicuri della vita eterna quando si hanno confessati i propri peccati e posto fede in Cristo che li abbia tutti perdonati con il suo sacrificio? Sostenere di possedere la vita eterna non è altro che un atto di umiltà e di fede. Gli orgogliosi sono piuttosto coloro che pensano di ottenere la salvezza mediante le proprie opere o virtù, ma confessare di non aver nessun merito per la salvezza e attribuire solo a Gesù ogni merito significa onorare l'opera di Cristo e il piano di Dio. Gesù è venuto come luce del mondo con lo scopo di togliere le tenebre in chi pone fede in Lui. Perciò chi ancora è nelle tenebre, chi non confessa di essere stato salvato dall'opera di Cristo, denuncia egli stesso la sua condanna. O Gesù ha detto una menzogna, oppure chi pone fede in Lui non si trova più nella situazione di prima, acquistando delle certezze che prima non aveva e un nuovo rapporto con Cristo. Prima la parola di Dio era un libro chiuso e la persona di Gesù era vaga e lontana, ma dopo che Gesù è diventato la sua luce, il credente ha una nuova vita, le cose vecchie sono passate e sono diventate tutte nuove. 2 Corinzi 5.1-7. Dichiarare che Gesù è la luce del mondo e non avere il perdono dei peccati. E la certezza della salvezza significa rinnegare ogni professione di fede in Cristo. 11. Gesù è venuto perché chi crede in Lui abbia una vita esuberante, Giovanni 10.10. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché le mie pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Se la tua vita ti sembra vuota, scialba e inutile, se sei ansioso e hai poche gioie perché i problemi ti sommergono, se sei disgustato dai venditori di illusioni che promettono una felicità materiale indannevole, se le persone del tuo ambiente ti hanno deluso, se hai paura della morte e la vivi come una scadenza terrificante, se non hai certezze per il tuo avvenire eterno, allora sei proprio la persona. Gesù Cristo è venuto a morire proprio per gli uomini travagliati perché abbiano una vita esuberante. Il senso del discorso di Gesù può essere comparativo, cioè che chi pone fede in Lui abbia la vita più abbondante rispetto a quella vissuta. Gesù non ha dato solo una Seconda possibilità ai suoi discepoli di vivere in modo diverso, ma dona la possibilità di vivere in un modo più completo e abbondante. Com'è la vita abbondante? In che cosa consiste? Non vi può essere vita abbondante finché si ha paura della morte. La morte costituisce per l'uomo un laccio al piede, un peso quotidiano, in salto nel buio. La prospettiva della morte rende insipida la vita, rende amara ogni gioia perché essa è destinata a finire. Con la sua venuta, Gesù ha liberato il credente non dalla morte ma dalla paura della morte. Liberato dalla paura della morte, il credente è in grado di correre libero verso la meta che gli è stata proposta, è in grado di predicare l'Evangelo senza timore, perché anche se dovesse versare la sua vita per Cristo, sa che avrà una resurrezione migliore. Solo chi ha posto fede in Cristo comprende il valore di queste parole. La vita cristiana non è un concetto o una filosofia, ma è una relazione con Cristo. Senza questa relazione non è possibile comprendere la vita abbondante come non è possibile comprendere come è un matrimonio se non si è sposati. Si possono avere tante teorie sul matrimonio, ma finché non si ha una relazione intima con un partner, rimangono concetti astratti. Così Gesù è venuto per dare a chi pone fede in Lui una relazione abbondante e gratificante. Chi non ha una vita abbondante con Cristo non ha realizzato il motivo per il quale Egli è venuto sulla terra e rende vano il sacrificio di Cristo. 12. Gesù è venuto per salvare il mondo, Giovanni 12.44. Se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. È proprio vero che ogni affermazione di Gesù, come di qualsiasi persona, va presa nel suo insieme. Gesù ha detto che non è venuto per giudicare le persone, ma per salvarle. Questo è il grande e incomparabile messaggio del cristianesimo. Da notare che Gesù non è venuto solo per salvare alcuni, ma ogni persona di ogni razza e popolo. Solo questo aspetto rende Gesù unico in tutti i sensi, perché nessun fondatore di religione, per quanto grande sia, ha mai avuto la pretesa di salvare non solo il popolo al quale appartiene, ma tutti gli uomini sotto i cieli. La salvezza universale che Gesù offre a tutti gli uomini dovrebbe indurre ogni persona appartenente a qualsiasi religione ad adorarlo e ad essere almeno riconoscente. Se non lo è per coerenza, dovrebbe scagliarsi contro e rivolgergli le più brutte offese per l'assurda pretesa di essere il salvatore del mondo. Com'è possibile rimanere indifferenti a ciò che Gesù ha detto? È vero che Gesù ha detto che è venuto per non giudicare le persone, ma non ha mai detto che non le giudicherà mai. Al contrario, più volte Gesù ha detto che un giorno giudicherà coloro che non hanno ubbidito alle sue parole. Anche se non è una novità, è bene ricordare che gli uomini non saranno giudicati per quello che hanno fatto. Nel testimoniare della mia fede molto spesso il mio interlocutore conclude dicendo che alla fine poi non ha fatto nulla di male. Qualche errore sì, ma nessuna cosa degna di essere perduto. Il concetto di essere mancanti ma non degni di condanna è talmente radicato così profondamente nel cuore di ogni uomo, al punto di non riuscire a comprendere il messaggio per grazia del Vangelo. Se Gesù è venuto per comprenca e salvare il mondo significa che tutti gli uomini sono perduti, diversamente Gesù ha detto una menzogna. O noi abbiamo bisogno di un Salvatore, o Cristo è morto inutilmente. Abbiamo detto che gli uomini non saranno giudicati per quello che hanno fatto, ma per aver rifiutato l'offerta di amore di Cristo Gesù, ma rimane comunque il loro comportamento la ragione del giudizio, perché non avendo accettato la grazia cadono sotto il giudizio di Cristo. Il tema della salvezza è di tale importanza che occorre specificare alcune verità. È opinione comune che Dio mandi all'inferno le persone solo perché non vogliono credere in Lui. Questo pensiero distorce totalmente il messaggio di Dio. Dio non manda e non vuole mandare nessuno in un luogo di perdizione. Anzi, Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Giovanni, nel suo Evangelo, riassume il tremendo messaggio della punizione eterna con queste parole: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre alla luce. Dunque, l'uomo è condannato perché avrà amato, o scelto, o preferito di più ciò che è male, piuttosto che il volere di Dio. Da notare che i perduti, secondo Giovanni, non saranno necessariamente delle persone irreligiose o comunque contrarie alla rivelazione di Dio. Esse avranno scelto o amato le cose di Dio, ma le avranno collocate al secondo posto rispetto al volere di Cristo. Dio non è un essere permaloso che manda in perdizione le persone solo perché non vogliono credere in Lui. E l'uomo che nasce perduto, lontano da Dio ed è già incamminato verso la perdizione eterna, Dio interviene per offrirgli la possibilità di salvarsi. Se l'uomo crede è salvato, se non crede non è Dio che lo manda all'inferno, ma egli rimane nella condizione nella quale si trova, cioè perduto. Inoltre, anche se può sembrare assurdo, le persone andranno in un luogo di tormento eterno, perché Dio le ama nel rispettare la loro libertà. Dio ha creato l'uomo libero ed egli non violenta la sua libertà. Se Dio obbligasse l'uomo ad andare in cielo o alla perdizione, compirebbe un atto di violenza, ma, soprattutto, mancherebbe di amore. Si può obbligare una persona a compiere un'azione, ma non la si potrà mai costringere ad amare. Nella sua sovranità Dio impone alcune cose nella vita di un essere umano, come il sesso, il colore della pelle, il luogo di nascita, e tutto questo per il suo bene. Ma non può imporre a nessuno di amarlo e, quindi, desiderare di andare in cielo con lui. Se facesse questo, compierebbe il più grande atto di ingiustizia. Proprio perché noi siamo delle creature libere di scegliere, Gesù è venuto affinché chi desidera la santità, la giustizia e il bene possa ottenerle mediante la sottomissione alla volontà di Dio. Gesù è venuto per salvare chi desidera Dio e la sua volontà più di ogni altra cosa. L'offerta c'è. Non resta che accettarla. Gennaio 2006, Ellero.